potersi svegliare, ma da domani, senza legami, ti chiedo di stringermi e dirmi rimani. Ci sono mille modi per dirsi t'amo, li proveremo tutti piano piano. Non ti offro un mondo senza problemi, ma molti istanti sereni. Mi credi? Vengo da giorni all'ombra e giorni di sole, e so cosa succede anche al più bel fiore, ma so di un luogo oltre i confini, e se poi fossimo i primi, sorridi, sorridi, sorridi, sorridi. Sorridi e torna quella luce negli occhi, sorridi e non c'è nulla che un sorriso non cambi, non tocchi. Sorridi, sorridi sulla strada vuota appena bagnata, sorridi anche se ti senti tutta sbagliata, sorridi e se spunta un po' di umido in fondo, sorridi che sei la più bella del mondo, sorridi e non sai quale magia ti sta attorno, sorridi e vedrai cosa può fare un sorriso di dentro. A cuore aperto, continua a vivere e sorridi. Regalo amore, non ho da mangiare, e nascondo perle fra le labbra di chi mi vuol baciare. Non ho segreti per chi sa ascoltare, e un sorriso occhi a occhi, ma non per guardare. Mi hai chiesto dove sta la verità, è solo un sorriso, niente trucchi, è tutto qua. Non è un rimedio a tutti i problemi, ma fa coraggio ogni volta che tremi. Sorridi, sorridi, sorridi, sorridi, sorridi e torna quella luce negli occhi, sorridi e non c'è nulla che un sorriso non cambia. La strada vuota appena bagnata, sorridi anche se ti senti tutta sbagliata, sorridi se spunta un po' di umido in fondo, sorridi che sei.